Y hoy en la radiografía, de nuevo, volvemos hasta la bella Italia, como se nota que es un país que nos gusta mucho, para charlar un rato con un joven cantante. Aunque primero vamos a saludar a Alessandro Carletti Orsini, el representante de la productora y distribuidora Music Force en Italia. Buenas tardes, Alessandro, ¿qué tal? Todo bien, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de hoy de Radio Cantabria. Bien, como en anteriores ocasiones, Alessandro va a realizar las veces de traductor para que podamos charlar con Matteo E. Basta. Él es un joven cantante, como he dicho, del norte de Italia, y hoy en la radiografía vamos a descubrir un poco más acerca de Matteo. Por supuesto, también le damos la bienvenida y también muy contentos de poder recibirle en nuestro programa. Presentiamo Matteo E. Basta, un cantante del nord-est italiano, e siamo molto contenti di avere Matteo nostro ospite e gli diamo il benvenuto. Saluto a tutti, grazie Patricia. Un saluto para todos y gracias Patricia. Podemos empezar. Muy bien, pues allá que vamos. Y yo creo que lo primero es remontarnos un poco en el tiempo. Matteo, él nació en el año 1985 en Trieste, al norte de Italia, y él es un intérprete al cual siempre vemos pegado a su guitarra. Así que me gustaría saber qué es lo que llevó al joven Matteo a coger por primera vez este instrumento y expresarse con la música. Allora, torniamo indietro nel tempo. Abbiamo già detto che Matteo è un ottimo cantante, è un ottimo chitarrista, nato nell'85, vive nella città di Trieste. E vogliamo sapere, gli ascoltatori di Oide Radio Cantabria vogliono sapere che cosa ti è passato per la testa qualche anno fa quando hai deciso di intraprendere il mestiere di chitarrista, di prendere per la prima volta in mano la chitarra e utilizzarla molto bene e cantarci anche sopra. Allora, diciamo che fin da piccolo, quando ho iniziato a studiare lo strumento proprio della chitarra, la prima cosa che ho iniziato a fare è proprio accompagnarmi con la chitarra nelle prime canzoni, le prime cose che facevo. Mi ricordo che erano le canzoni dei Beatles. Las primeras veces que él utilizaba la guitarra era por cantar las canciones de los Beatles, porque a él le gustaban mucho. ¿Y cuáles fueron sus primeras experiencias artísticas? ¿Tiene algún recuerdo de la primera vez que se puso delante del público? ¿Cuáles son los recuerdos de la tu primera experiencia artística y sobre todo de la primera vez que has suonato delante de un público? Io penso ai primi saggi quando ero piccolino, i primi saggi di chitarra classica proprio. Mi ricordo che ero sempre tesissimo, avevo all'incirca 8-9 anni. Él tenía 8-9 años cuando la primera vez suenó su instrumento con mucha gente que lo escuchaba. Actualmente en nuestro programa estamos escuchando un EP titulado Milioni, es el nuevo trabajo de Matteo E. Basta. El primero se hizo público en el año 2009, creo que se titulaba Lacrime. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que le hace a él escribir música? Porque él compone sus propias canciones, ¿no es así? Adesso sei in promozione, sei in stampa, sei in distribuzione con l'album che si intitola Milioni. Però nel 2009 è uscito Lacrime, quindi un tuo primo EP a cui poi ha fatto seguito Milioni. Vuole sapere che cosa ti passa nella testa quando componi le tue canzoni, visto che comunque le fai quasi del tutto da te. Qual è lo spunto iniziale per comporre la canzone e per portarla a termine? Allora, nasce tutto principalmente da un'esigenza, un'esigenza probabilmente di estraniarmi un pochino dalla realtà, quindi di vivere un po' in un sogno, un po' un come se dovessi vivere una vita diversa, crearmi delle situazioni proprio di vita diverse, e quindi componendo mi immagino di vivere delle storie, di vivere dei momenti particolari che vorrei vivere, che vorrei fossero diversi magari da, dalla realtà che vivo in questo momento, ecco. Es como una necesidad de alejamiento. Es un, cada canción es un sueño. Él quiere ver la realidad en manera diferente y lo puede hacer con sus canciones. Entonces es una necesidad de escribir canciones. Es proprio una parte tutto dalla musica, parte. È come se vedessi proprio la musica come la colonna sonora di una storia, della mia storia o di una storia che vorrei vivere, ecco, per essere più precisi. Empieza tutto della musica. Él ve la musica come una banda sonora di sua vita e le canzoni pueden essere questa banda sonora completa. Hablemos ahora de su nombre artístico, porque Mateo E. Basta es una especie de juego de palabras que en español podríamos traducir como Mateo y bastante. ¿Cómo se cambió a este nombre artístico? Porque él en realidad se llama Mateo Boñolo. Creo que lo he pronunciado bien. Allora, vuole sapere ovviamente il perché di Matteo e Basta, che in spagnolo si può tradurre come Matteo e Bastante, però vuole sapere il perché di questa scelta, perché tu effettivamente ti chiami Matteo Boñolo. Esatto, sì, è stata bellissima in realtà a pronunciare il cognome, lo sbagliano quasi tutti, quindi il discorso del nome Matteo e Basta è nato più per gioco che nella ricerca di un vero e proprio nome d'arte, proprio nato da questa esigenza di evitare, ecco, la storpiatura del cognome, che sembrava all'inizio non sembrava, era sicuramente era inevitabile che tutti quanti lo sbagliassero prima o poi, come lo pronunciavano nella locandina dei concerti, anche a scriverlo e come lo pronunciavano. In tantissimi modi, che ne so, Boggiolo, ad un concerto fuori nella locandina, fuori da un locale, una volta hanno scritto Boggiolo addirittura. Es una necesidad el nombre artístico, porque él se llama Mateo Boñolo y toda la gente se equivoca a llamarlo Mateo Bruñolo, Mateo Boggiolo, y él decidió de llamarse Mateo e Basta, que es a decir Mateo y Bastante. Así nadie puede equivocarse. Lo entendemos perfectamente. Así no da lugar a equívocos. Mateo y Basta. Sí, Mateo y Basta. Aunque si Patricia es stata bravísima a pronunciarlo. ¡Ay, gracias! Bueno, estamos escuchando en nuestro programa este trabajo del año 2012 de Mateo y Basta, Milioni. Son unas cuantas canciones llenas de sentimiento, pero también de buen ritmo, y cantadas casi todas en italiano, pero también podemos escuchar temas en inglés y vemos que se siente muy cómodo en ambos idiomas. ¿Va a seguir cantando en sus próximos trabajos discográficos tanto en inglés como en italiano? Allora, tu sei partito quest'anno con il tuo album Milioni. Vedendo un pochettino tutte quante le tue canzoni, vedi, si nota che ovviamente le tue canzoni sono per la maggior parte in italiano, ma ci sono anche delle canzoni cantate in inglese e peraltro cantate anche molto bene. Lei dice che effettivamente tu riesci ad esprimere i tuoi sentimenti molto bene sia in italiano che in inglese. E da dove viene questa cosa qua? E se nel futuro adotterai solamente l'italiano, solamente l'inglese, o continuerai su questa strada? E il perché riesci a parlare così bene in inglese? Ma allora, il perché dell'inglese, come accennavo già prima, è proprio dato dal fatto dai primissimi ascolti che ho fatto fin da piccolo, quindi Beatles, Simon & Garfunkel, John Denver, Bob Dylan, quindi tutti questi artisti qui. Il perché ho deciso di scrivere in inglese non è una scelta come potrebbero pensare tanti in Italia, per nascondersi, ecco, dietro al non saper scrivere in italiano o al non voler sapere agli italiani cosa veramente dicono i testi, per nascondermi, ecco, dietro alla lingua. Questa è una prima cosa. La seconda cosa, sicuramente in futuro cercherò di mantenere entrambe le lingue, l'italiano, perché sicuramente, perché ovviamente siamo in Italia, ed è giusto rispettare, ecco, la nazione, del posto da cui, il paese da cui vengo. L'italiano è una lingua bellissima, altrettanto però difficile da usare, secondo me, in musica. L'inglese l'ho sempre usato, mi piace un sacco, come mi piace molto la sonorità proprio della lingua inglese. Mi trovo molto bene a comporre tutte queste canzoni in inglese. Oltretutto ho anche ho avuto e c'ho la possibilità di poterlo esprimere, di poterlo fare anche al di fuori dell'Italia. Sono stato spesso in Inghilterra e quindi ho anche modo, ecco, di poter esprimere le mie canzoni lì, proprio nella madrepatria, ecco, della lingua. Sus canciones en inglés, él las escribió porque le gustaban los Beatles, como he dicho antes, Simon and Garfunkel, y él no usa el inglés por esconderse. Él usa el inglés porque le gusta, porque es un idioma muy musical y se puede componer algo muy, muy fácil. También él puede cantar en italiano porque él es italiano y es normal exprimir todos sus sentidos en italiano. En el futuro él conseguirá de cantar y escribir sea en italiano que en inglés. Y él puede cantar muy bien en inglés porque dos, tres veces cada año va en Inglaterra y tiene dos, tres conciertos cada vez. Y entonces él puede exprimir sus canciones directamente en Inglaterra. En ningún momento hemos hablado del estilo de Mateo de Basta, porque yo creo que lo mejor es que los oyentes le escuchen, que es la mejor manera de conocer a este italiano de Trieste, al cual le damos las gracias por habernos acompañado estos minutos en nuestro programa. Un saludo muy fuerte, Mateo, y seguiremos escuchando tu música aquí en la radiografía desde Cantabria, desde España. Allora, cercheremo ovviamente di scoprire ancora di più il discorso relativo a Matteo, cercando di seguire lo stile di Matteo, cercando effettivamente di poter dire: ah, quello è Matteo, quello che sta, Matteo e Basta, quello che sta passando alla radio. Continueranno a passare i brani del tuo disco su Oid Radio Cantabria in Spagna e sono contentissimi di averti avuto ospite. Ok, grazie mille. Grazie mille ad Alessandro che ha fatto da interprete, a Patrizia, spero che Patrizia possa sentire anche la mia musica, non solo accendendo la radio, ma chissà che non riesca a venire a far visita fuori in Spagna, più in là. Gracias, muchas gracias a todos, a Alessandro, yo, a Patrizia, y él espera que un día tú podrás escuchar su música no solamente a la radio, ma también en vivo, en un concierto, si él vendrá en España. Ojalá que sea así, podamos encontrarnos o bien aquí en España, o si no, igual lo que tenemos que hacer es viajar hasta Italia. Que tampoco está nada mal la idea. Sí, si potrebbe fare España, si potrebbe fare in Italia, sarebbe comunque bello, magari. Grazie mille ancora, e grazie mille a tutti gli ascoltatori ancora della Spagna. Non le night. Lonely, but just ready for the fight. Lonely, on my target I am set. And even if I'm lonely, I must go.